Ciao a tutti! Ciao Ciao! Io ciao! Eccoci qua! Io sono Addu Zazi. e io Falù. Siamo qui con la nostra nuova puntata, Sì, giusto? della nostra nuova trasmissione che si tiene su Radio Wombat, l'unica radio libera di Firenze. Se volete seguirla, potete seguirla o in diretta oppure in differita. Questa puntata sarà registrata e potete andare sul sito radiowombat.net per ascoltare tutte le trasmissioni. Oppure semplicemente sulla frequenza AM 1359. Bene, che dire? Esatto, Ciao a tutti, ascoltatori, come stanno? riprecisiamo che in realtà noi non saremo in diretta, quindi se ci state ascoltando sappiate che noi appunto l'abbiamo registrata 2 anni fa, questa puntata, e niente, Esatto, si esce ok. solo ora, no? Sì, Chiaro. esatto. Esatto. Quindi le cose potrebbero essere Sì, cambiate, no, ma infatti, noi siamo ovviamente, va bene abbastanza così. avanguardisti. Esatto. E niente, cerchiamo di Quindi. farvi compagnia per una buona ora e mezza. Speriamo di buona musica e di altre informazioni. Sì, vogliamo un po' raccontare di cosa proveremo a parlare oggi Vai, dai. e però anche nelle prossime Diamo puntate. questo compito a Zazì. Esatto. Allora, beh, di cosa parleremo? Parleremo di piante, Ci innanzitutto, piace, che è sì. già un grande tema di piante, ma di tutto quello che ruota attorno a queste nostre amiche, perlomeno nostre, Sì, amiche e segrete. amiche segrete. Quindi anche parlando della progettazione degli spazi verdi e degli spazi aperti, andremo un po' anche ad analizzare con voi alcuni progetti, a capire cosa si intende scusate, spazi aperti. E inoltre anche altre riflessioni riguardo comunque l'arboricoltura, quali sono diciamo azioni da dover evitare o come anche poter giudicare un buon operato. Esatto, saremo E molto molto, giudiziose, molto critiche. estremamente alla nostra sapienza. Esatto. E poi boh, di altri argomenti che si possono legare a questo grande tema, anche volendo La l'ambiente o natura in la natura in generale, insomma. generale, insomma, anche parlando di musica, di arte, Sì, di tutto ci tutto quello verrà che, in mente, esatto, dai. libri, non so, quello che verrà e ci ispirerà. Bene, con questo coraggioso e speranzoso inizio in cui speriamo davvero di avere degli ascoltatori, introduciamo il nostro primo argomento, Ecco, esatto. ovvero l'erbario. Esatto, che cos'è un erbario? Perché andremo a parlare di erbario e si spiegherà durante tutto il corso della nostra puntata. Innanzitutto partiamo con una definizione di un erbario. Due in realtà, perché l'erbario ha due grandi definizioni. La definizione generale, ovvero una collezione di piante disseccate e classificate, fatta con metodi e scopi scientifici, indispensabile per i confronti necessari negli studi di sistematica e di floristica. Molto, molto, molto scientifico, ecco come Esatto. definizione. Un'altra Non ci piace molto, un po' troppo scientifica. Un'altra definizione molto meno scientifica, come non piace a Addu, un libro che descrive le piante medicinali e le loro virtù, accompagnandole la descrizione con illustrazioni. Queste due diverse definizioni hanno una loro motivazione, dovuta dalla storia che c'è dietro. Infatti, l'erbario viene definito sin dai tempi dell'antica Grecia. Aspettate, piccoli problemi tecnici. No, no, ci siamo Da prima prontissimi. dei tempi di Aristotele, era inizialmente fatto con dei disegni delle piante e era soprattutto ad un uso personale, diciamo che ognuno poteva raccogliere, disegnare e riportare gli usi che poteva fare anche semplicemente in casa, che ne so, rimedi per la tosse, per una qualsiasi cosa, anche un po' che sfocia nel magico, nella tradizione, cose anche non troppo veritiere, diciamo, alle piante si attribuiva anche tante e troppe cose. E quindi diciamo che Le era una nostre cosa. amiche segrete, no? Sì, Esatto, si esatto. torna sempre lì. Quindi appunto si cercava di sfruttare il più possibile le proprietà curative delle piante, ma anche semplicemente per la cucina, diciamo, e mangia e cena anche le piante, insomma, fanno il loro contributo. Bene. Oh sì. E niente, comunque c'è sempre stato un interesse da parte degli uomini, sì, sempre uomini, perché ancora per parlare di donne se ne dovrà aspettare. Comunque dei uomini di scienza e studiosi nella redazione di erbari, anche il più possibile scientifici e tassonomici. Tassonomici, poi lo spiegheremo che cosa vuol dire questa Sì. parola. C'entrano i Prossimamente. tassi, quello Prossimamente. pure. È L'animale, il lui. nome dei tasti, vai Sì, nomici dei tasti. esatto. Per molto tempo si considerò l'erbario, il primo erbario stipulato di Apuleio. Questo risale all'incirca al secondo secolo ed è stato un po' un erbario di riferimento, soprattutto per la struttura. Apuleio, sì, è una figura un po' controversa, nel senso non si sa se sia stato proprio lui a redargli questo primo erbario oppure semplicemente è stato qualcun altro per lui, ecco. Infatti, diciamo che perché si fa molto riferimento a questo, inizialmente a questo erbario? Per la struttura, perché questo presentava delle schede tecniche, delle cosiddette schede botaniche. Innanzitutto ci sono vari nomi con cui la specie viene chiamata, alcune caratteristiche botaniche molto importanti, le proprietà curative e il metodo di utilizzo, il tutto sempre accompagnato dal disegno della pianta. Esatto, sì. Questa era una prima parte, quindi di quello che è stato un po' l'erbario nella storia. Non è finita qui, c'è ancora un pezzettino da dire, però magari direi di interrompere un attimino Sì, e mettere un po' di musica. Vediamo musiche. cosa ci consiglia la nostra playlist musicale. I'll be your firefly, shining bright when dark clouds come across the sky. I'll be your firefly, so you can see your way to me at midnight. You'll be my firefly, burning flames, incinerate a path for me. And that is why I'm not afraid to go out now to see my firefly burn, baby, burn, burn, baby, burn, burn, baby, burn, like sweet glow. I said burn, baby, burn, burn, baby, burn, burn, baby, burn, like sweet glow. Eccoci qua di nuovo, siamo tornate. Niente, Palù ci ha dovuto abbandonare perché ce l'ha detto, no? Sì, doveva andare a salvare delle piante in pericolo. Esatto, è stata chiamata in fretta e furia, Sì, quindi. era urgentissimo, cioè non si poteva aspettare, se no si estinguono queste piante, è Esatto, chiaro, esatto. E a no? proposito di estinzione, continuiamo questa storia. No, Distinzione, ci stiamo estinguendo. no, no. Però sì, no, è vero, ha un senso, sì, ha un senso con quello di cui stavamo parlando, no? Cioè, lo sapete tutti, no? Gli erbari, ok, cos'è un erbario? Si fa tutta la parte un po' introduttiva, però prima di ripartire, ridiciamo dove siamo, cosa facciamo. Siamo su Radio Wombat, di cui abbiamo citato il sito prima, quindi radio, no, com'era? RadioWombat.net, sì. E c'è anche una mail che ci eravamo scordati di dire, posta wombat@insiberia.net. Appunto, non saremo in diretta noi, però per tutte le altre super numerose volte in cui ascolterete questa radio, sappiate che c'è questa mail, no? Esatto, Importantissima. esatto. Va bene, allora continuiamo un po' con la storia dell'erbario. Quindi, sì, niente, si è detto che era un po' di uso casalingo, e che poi c'era l'erbario di Apuleio, che aveva una struttura precisa, quindi veniva riportati tutti i nomi delle piante, c'era il disegno e le proprietà curative, quindi era molto incentrato su, l'utilizzo, farmaceutico, si potrebbe dire, delle piante. Quindi nel corso del tempo però più volte si provò a innovare il modo di rappresentare le piante scelte, quindi non più disegnarle. Si provò infatti a dipingerle con delle pitture o a stamparle, per così dire, su carta. E questa pratica si sviluppò in particolare nel tardo Rinascimento, infatti la sperimentò anche Leonardo da Vinci, per dire, e con il nome di Ectipa plantarum. Nome ampliatissimo, anche questo non ci piace. Va bene. Consisteva nel cospargere campioni di nero fumo, che è una sorta tipo di cenere ricavata da una combustione non completata di materiale organico. Quindi veniva cosparso questo nero fumo sul campione, il quale poi veniva appoggiato su un quaderno, chiuso il quaderno e così rimaneva l'impronta, semplicemente. E ragazzi, i risultati sono bellissimi, ve l'assicuro. Si trova, tra l'altro, degli Ectipa plantarum su internet, se ve li volete andare a cercare, e sono veramente belli i risultati, belle stampe, super dettagliate in realtà, quindi anche funzionali, appunto. Vero, vero, andatevi a vedere. Esatto. Un altro metodo invece fu quello proprio della stampa vera e propria, che ovviamente era più pratico, più facile probabilmente perché era più seriale, però le stampe venivano molto peggio perché le grafiche erano molto più semplificate, quindi c'erano meno dettagli e ovviamente essendoci meno dettagli si riconosceva anche peggio la pianta, quindi era diciamo meno utile. Si arrivò invece al prelievo di campioni per l'essiccamento soltanto nel 500. Questo tipo di erbario si diffuse velocemente anche grazie a Luca Ghini, che era un medico e botanico che gravitava nelle biblioteche di Bologna e di Padova. Fu lui a mettere in circolo una collezione di erbari tramite i suoi allievi e tramite i suoi colleghi. Subito si capì che il metodo dell'essiccamento e quindi della collezione del campione essiccato era molto funzionale. Perché, vabbè, ve lo potete immaginare, si vedeva tutti i dettagli che ci servivano. Magari il colore può essere un pochino diverso, va bene, però comunque funziona bene come tecnica. Fino a qui l'erbario, come già detto, aveva più carattere casalingo o in maniera più o meno professionale anche scientifico, come appunto per esempio nel caso di questo Luca Ghini. Ma nell'Ottocento diventa invece una vera e propria istituzione accademica, al pari degli orti e degli istituti botanici, ai quali spesso infatti gli erbari erano annessi. La loro funzione nel tempo è diventata proprio quella di bacino scientifico per la classificazione di nuove specie e catalogo botanico. Succedeva e succede infatti che alcune specie conservate negli erbari si estinguano o comunque che nei luoghi in cui sono stati prelevati i campioni quelle specie non siano più presenti. Quindi, sì, appunto, a Ecco proposito di l'estinzione. estinzione, cioè ragazzi, la falda da fare una cosa importantissima, no? Va bene. Quindi, un esempio di questi erbari, appunto erbari in quanto istituzione, lo si ritrova anche a Firenze, dove c'è uno tra i 10 erbari più grandi al mondo, grandi per quantità di campioni. E si trova a Firenze, quindi presso il Museo di Storia Naturale, che vabbè, per chi è di Firenze, è vicino San Marco, per capirsi, e si chiama Erbario Centrale Italiano ed è il primo nato in Italia nel 1842. Ancora oggi si continua ad aggiungere nuovi campioni e nuove specie in questi erbari, appunto, quindi anche in questo di Firenze, ma anche in tutti gli altri del mondo, e sicuramente, data l'enorme biodiversità che ci offre, grazie a Dio, la natura, continuerà così sicuramente nei prossimi anni, io direi anche per sempre, perché insomma Si non si spera. finisce mai di scoprire piante, e tra l'altro veramente se ne conosce tante, ma non No, così tante, assolutamente, proprio quindi mira. ce n'è tanto da sapere ancora. E quindi niente, qui in questo modo siamo un po' arrivati a più o meno i giorni nostri, si era un po', diciamo, 1800, quindi dai, ci siamo quasi. Esatto, meno male, le cose sono Sì. succedute in questa maniera. E quindi però appunto dal 1800 appunto fino ad oggi, perché cacchio siamo andati a parlare del Bari? Cioè diciamocelo, siamo Questa nel cosa antica. 2021, insomma, magari... No, invece ha un senso perché io posso decidere di farmi un erbario per varie ragioni che magari non sono esattamente le stesse per cui lo faceva Culeio, per dire che voleva sapere tutte le proprietà curative, perché quello vado in erboristeria, lo chiedo e me lo dicono, no? Quindi va bene. Però più che altro può servire un sacco, secondo me, secondo noi, e si spera non solo noi, Esatto. a imparare a studiare le piante. Quindi io vado lì in un bosco, raccolgo i miei campioni, mi faccio l'erbario, così imparo a guardare le piante, osservarle, riconoscerle. E appunto nel riconoscimento, il riconoscimento è un po' secondo me il fulcro centrale, perché non è così facile riconoscere una pianta da un'altra e come dire, le parti della pianta da guardare per appunto distinguere da un'altra pianta non sono a caso, cioè non sono tutte, diciamo, o meglio, sì, anche tutte, però. Diciamo che principalmente Sì, se ne possono sicuramente identificare alcune più importanti, sì, e proviamo un po' quindi a elencarle. vai, va bene. Allora, innanzitutto è importante in generale, soprattutto per gli alberi, il portamento. E il portamento si intende come si presenta l'albero, Esatto, l'architettura voi non la dell'albero. vedete, ma la gestualità di Zazie era fondamentale, cioè immaginatevi una Esatto. nuvola davanti alla soffa, quella. Un portamento un po' più a pallina, un po' più globoso, più allungato e Pastigiato. pastigiato, come possono essere un po' allungato come i vostri famosi cipressi toscani. Anch'io non sono toscani, ma Oh, quello sarà un cicca. altro argomento. Senti Oppure. che sguardo cattivo proprio. oppure, ovviamente, i rami, il fusto, le foglie, i fiori. E i frutti, quindi uno si dice anche cosa manca, che dopo hai detto tutto. Ci sono in realtà tante parti delle piante, ma anche Esatto, questo si approfondirà. si approfondirà, sì, cioè, regà, è un argomento enorme, quindi ovviamente ci piacerà un sacco approfondirlo nelle prossime puntate, nelle tantissime, numerose prossime puntate, e oggi vi si dà un po' un abbocchino, diciamo Esatto, così, no? esatto. Quindi, vabbè, come rami, fusto, ovviamente è importante, vabbè, per il fusto, quindi il tronco, la corteccia, il colore, come si Esatto. presenta, se liscia o leggermente scanalata, insomma, con delle crepettine, quello vedete. Anche lì, ovviamente, alcuni alberi hanno delle cortecce super caratteristiche, quindi, boh, che ne so, c'è il pino. Domestico, brava, quello. Fius. Lui domestica. Dimfinea. Lui magari ha la corteccia, si riconosce un botto, però non tutte magari sono così, alcuni sì, alcuni no. Quindi ovviamente è un argomento, sono tutti argomenti complessi, no? Esatto. Però è così per dare un po' un'idea. Oppure, Le foglie, anche quelle appunto si possono, ovviamente forse quelle ce l'avete più presente come varietà, possono essere di diverse tipologie, alcune insomma sono molto evidenti, possiamo prendere quella dell'acero, quella di una quercia che O magari, di un o fico, esatto, di sì, un fico, insomma. insomma che sono ben Identificabili, identificate, esatto, sì. identificabili. Quindi se ne può vedere, per esempio, il cosiddetto margine, che boh, è il bordo, semplicemente, Esatto. che per dire, se voi sentite bordo lobato, quella ha un nome preciso proprio perché è una caratteristica di riconoscimento di una pianta. Lobato vuol dire che ha delle scanalature di solito arrotondate, ma in Sì. realtà sì, no, non sempre arrotondate in realtà, quindi... Come appunto quella della quercia, si può dire, Esatto, per darvi un'immagine, ecco. sì. Oppure possono essere una foglia semplice, quindi una sola unica foglia o più foglie, oppure vabbè, ovviamente ci sono anche tutte le conifere, quindi abbiamo i vari Foglie aghi, agiformi, appunto, esatto, squamiformi, formi, esatto. tante diverse tipologie, e ognuna di queste ha un nome, ragazzi. Eh sì, Certo, sì, sezione complessa. esatto. Poi abbiamo anche i fiori. I fiori I fiori. sono complicati, eh. Però, cioè, alla fine, boh, un fiore giallo è giallo, un fiore rosa è un Un fiore fiore rosa, rosa. cioè, facile, no, non è vero, è facile, non è vero. Però i fiori in realtà sono abbastanza distintivi da specie a specie e magari spesso da famiglia a famiglia. Cioè, Esatto. ora, per dire, la famiglia è un po' più in alto della specie, nel senso che una famiglia comprende tanti generi, i quali comprendono tante specie. Così, giusto per avere un'idea. Quindi, magari piante, quindi specie della stessa famiglia, ci sta che abbiano fiori simili, per esempio. Cioè, se andate a vedere i fiori delle zucche e delle zucchine, sono molto, molto, molto, molto simili, per darmi un'idea. Quindi, i fiori ovviamente sono complessi, nel senso che come organo della pianta sono composti da tante piccole parti all'interno e va bene, sono complessi per quello, però forse appunto da pianta a pianta si riescono un po' più a distinguere, a meno che magari una pianta ci abbia i cosiddetti fiori incospicui. Cioè, che non se li caga nessuno, sono piccoli, non si vedono, cioè cose del genere. Quindi, magari quelle sono piccini e vabbè. Però, se non si guarda i fiori, si può guardare qualcos'altro. Ad esempio, appunto, i Esatto. frutti che Che possono. nascono prima del fiore, Esatto, cioè, chiaro, no? Si sa, sì. cioè. Tu prendi il frutto e si trasforma in Sì, fiore. sì, sì. No, Infatti, ragazzi. le nostre pance piene di mele sono in realtà piene di fiori. Esatto, assolutamente. Quando ti dicevano non mangiare i semi dell'anguria, se no ti cresce un cocomero in È pancia, vero, in cioè, dovete avere paura dei semi realtà. dell'anguria, è vero, ve lo assicuro. No, a parte scherzi, non vi vogliamo confondere, i frutti vengono dai fiori e in quanto tali, a volte, cioè, metti, se uno paragona un fiore che poi sviluppa un certo frutto, vede delle somiglianze, cioè vede che ah ok, il fiore era fatto così, ah quindi il frutto è fatto con questa struttura. Comunque vabbè, anche lì tra l'altro 6.000 tipi di frutti, complicatissimi distinguerli, cioè io ho una difficoltà incredibile, acheni, robe, ghiande, noci, ma non noci quelle walnuts, cioè noci in generale, Esatto. vuol dire una cosa specifica, drupe, no, un casino, però vabbè. Al di là di come classificare i vari tipi di frutti, però ogni specie ha il suo frutto con la sua specificissima forma. Quindi anche quello sì, appunto, è un ottimo carattere di riconoscimento. Poi, andando avanti, invece, le gemme, per esempio, le gemme che sono quell'organo da cui spuntano fuori magicamente rametti e foglie. Quindi la disposizione delle gemme, per esempio, sul ramo è molto importante e può essere che è la stessa disposizione delle foglie, no? Oh, Quindi sì, anche o di lì, altri rametti, insomma, no, il blocco della esatto, crescita. esatto. Quindi la varie forme delle gemme, boh, vogliamo dirne qualcuna, così giusto per avere Dai, un'idea. beh, possono essere un po' appuntite. Ovoidi, quindi un po' più tondeggianti, alcune sono un po' pelosine, quindi magari le riconoscete, Pubescenti. pubescenti, se vogliamo essere Oppure alcune possono presentare tante piccole squamettine, diciamo, quindi essere, diciamo, perulate o pluriperulate, perulate, oppure senza nessuna perula, quindi belle lisce, con Esatto. un'unica, diciamo, vettore, Glabre. un labbro, esatto. Sì. E... Ok, quindi sicuramente ce n'è altri anche di robe per fare il riconoscimento, però boh, ve ne abbiamo buttate lì un po', quindi ve le riguardate, ovviamente se vedete le foto tutto sarà più chiaro, perché solo a voce così non si possono spiegare queste cose, però intanto vi si è dato un'idea. Boh, mettiamo un altro pezzettino e poi ci si risente fra poco. Ora, ok. Ci siamo. Allora, siamo di nuovo qui, Adu e Zazi, Yeah. a darvi un po' di compagnia botanica. Sì. Compagnia botanica, mi piace Compagnia questo botanica. termine. E, sì, stavamo dicendo un po' le robe da guardare su una pianta. Queste cose che uno si Sì, trova davanti. queste cose. Vogliamo un po' ribadire. Vabbè, aspetta, robe da guardare su una pianta, ok, per cosa? Però per il riconoscimento, quindi per distinguere Esatto. una specie da un'altra. Esatto. Molto bene. Perché ci sono alcune cose in particolare da guardare, lo ribadiamo un po', perché, Ah no. perché appunto non... Spiegalo sì. Questa è Perché, a tua, ti parte, passo la palla. vai. Perché, a parte appunto questi, diciamo, macro categorie che abbiamo detto di guardare, quindi portamento, foglie, rami, bla bla bla bla, bisogna però, diciamo, ci si può confondere. Sì. Ci si può confondere perché bisogna stare attenti che spesse volte, diciamo, non è che all'interno della stessa pianta le foglie siano tutte grandi uguali. Sarebbe bello ogni Sì, tanto. sì. Oppure tutte, diciamo, della stessa tonalità di verde. Non capita. Oppure anche altre, diciamo, certe volte si cambia addirittura la forma, quindi Davvero. attenzione, attenzione, che può essere una caratteristica che può aiutare a identificare, ma altre Ma può volte. essere anche un evento inaspettato. Esatto, ci sono, esatto, magari anche appunto adesso che si parla tanto di cambiamenti climatici, Sì. anche queste cose possono causare delle differenze, diciamo. Facciamo un esempio, via, se no Facciamo un mi esempio. sento. Tipo la gelata che c'è stata grossa ad aprile, che tanta gente ha profondamente odiato, giustamente. Per esempio, in alcuni alberi ha cambiato, ha fatto sì che le nuove foglie venivano fuori, poi avevano una forma un po' diversa, cioè ora era una quercia in questo caso, quindi la foglia e la quercia, tra l'altro magari ce l'avete presente. Era di una specie di quercia con foglie di suo grandi, però con questa gelata, a seguito della gelata, ha fatto foglie esageratamente Sì. grandi e tutte anche scure, tutto un po' tipo un Bobose, sì, un botolzolose, un po' po' strane. bollose. E che ne so, ora non siamo andati certo a studiare di preciso com'era questa pianta, però ci sta che le gemme che hanno tirato fuori dopo quelle foglie si siano danneggiate con la gelata e quindi poi dopo è venuta fuori questa foglia qui. Oppure magari era una Chissà. risposta al freddo della Esatto. pianta. Vabbè, ora non si sa di preciso, però per avere un'idea. Oppure si sì, c'è cioè, tipo la grandezza, La no? grandezza, esatto, perché appunto c'è una differenza, a parte del, diciamo, l'età della foglia, quindi appunto del ramo dove questa è, ma anche se la parte della chioma nella quale noi preleviamo la foglia è in ombra o al sole, porta ad avere una differenza. Quindi cerchiamo di prendere le foglie, tra due specie che magari si possono confondere sempre nello stesso punto della chioma, o comunque che abbia Esatto. caratteristiche simili, quindi soleggiata più o meno nella stessa maniera. Influisce anche a livello generale sulla pianta, non solo sulle foglie, l'età della pianta proprio. Per buttarla lì, si distingue fra, come si dice? Voglio non viene. Maturità sessuale, ovvia, scusate, lapsus. Quindi maturità sessuale che si intende da quando la pianta può sviluppare organi sessuali, ovvero fiori che poi portano a frutti. Infatti, un esempio sulle foglie, si torna lì, è sull'eucalipto. Yes. Quindi l'eucalipto in età giovanile. C'ha delle foglie tonde, carino un sacco, un po' Sono delle medagliette, un cusce, po' sì, così. esatto. E invece poi quando raggiunge la maturità sessuale, le foglie, quelle magari ce l'avete più presente, sono tutte lunghe, lunghe, allungate, fini, un po' ricurve verso il basso, tipo, quindi cioè, proprio non c'entrano niente. E ce l'ha un po' sta cosa, sì. Oppure il gelso si vedeva che Ah, a giusto. seconda. Insomma, di varie cose, comunque può avere o foglie molto lobate, veramente molto Ora che lobate. sapete cosa significa Esatto, ora lo lovato. sapete, sì, esatto. oppure no, quindi insomma c'è un po' di varie possibili differenze. Sì, direi che dai, abbiamo dato abbastanza informazioni per ora. Sì, sì. Sì, direi che Siamo noiose, siamo noiosissime. Oddio. però forse sarete preparati per questa sfida. Ok, ci sarebbe un piccolo intervento che vorremmo mettere, che l'abbiamo dovuto registrare nei giorni precedenti perché, cazzi nostri, raga, Impegni, impegni. impegni, perché volevamo capire, proprio perché in realtà ci piace un po' stare sul pratico, cioè va bene la storia, bellino, ok, però cosa ce ne facciamo noi dell'erbario adesso, ad oggi, un po' ve l'abbiamo detto e quindi però come si fa, come si costruisce, diciamo, un erbario. Quindi questo ce lo racconterà una nostra compagna in una super intervista che le abbiamo fatto all'interno della meravigliosa rubrica Giovanna dice, ragazzi. Quindi riproporremo probabilmente questa rubrica nelle prossime puntate. E niente, eccola qui. Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, iniziamo dalla prima domanda. Quali sono le fasi per realizzare un erbario? Allora, le tre fasi per la realizzazione dell'erbario sono la raccolta del campione, l'essiccamento dei campioni e la composizione dell'erbario stesso. E per queste tre fasi, quali sono gli strumenti necessari? Beh, allora, per la raccolta dei campioni vi serviranno delle cesoie, dei quaderni spiralati oppure delle buste di plastica, in base a quanto tempo dovrete stare fuori casa prima di essiccare i campioni. Questo perché nelle buste di plastica, il campione appena raccolto rischia di rovinarsi rilasciando tanta umidità. E infine vi serviranno, una matita o una penna per fare qualche nota durante la raccolta. Nella fase di essiccamento invece vi serviranno della carta di giornale oppure della carta assorbente dello Scottex, dei fogli di carta e dei libri pesanti o comunque dei pesi da appoggiare sopra i campioni. E inoltre tutto questo andrà fatto in un luogo asciutto e con poca umidità. Per la composizione invece vi serviranno dei cartoncini, dello scotch trasparente o comunque un poco aggressivo e delle etichette da usare per annotare poi tutte le caratteristiche del campione. Inoltre vi serviranno un quaderno ad anelli e delle buste forate di plastica. Ok, e per la fase di raccolta ho messo il campione. Allora, per la raccolta del campione bisogna distinguere tra campioni arborei e campioni erbacei. I primi, infatti, necessitano di un campione che abbia almeno due gemme al suo interno, questo per poter vedere la disposizione che queste hanno sul rametto. Bisogna poi vedere almeno due o tre foglie in modo da poterle poi disporre sui nostri cartoncini in modo che si vedano sia il fronte che il retro delle foglie. E poi, se è stagione, si possono trovare campioni anche con fiori o frutti che aiutano molto nell'identificazione. Se è il periodo giusto, tra l'altro, nei campioni arborei, possiamo anche trovare la corteccia del tronco che si sfoglia, e quindi senza rovinare l'albero e senza danneggiarlo se ne può prelevare un campione. Per i campioni erbacei, invece, bisogna prendere dei pezzettini di fusti erbacei abbastanza grandi, due o tre foglie anche in questo caso, e infiorescenze, frutti e semi se li troviamo. Come si preleva il campione? Beh, allora, la raccolta del campione è molto importante perché è necessario farlo in modo da non rovinare la pianta. Quindi, con le cesoie, nel caso di campioni arborei, cercheremo di effettuare un taglio non perpendicolare alla direzione di crescita, ma obliquo, appunto per non rovinare la pianta. Poi, prima di fare questo, è bene sul quaderno che ci siamo portati annotare il nome della specie, la data di raccolta, il luogo di raccolta e alcune caratteristiche. Nel caso in cui non si sappia di che specie si tratta, si possono fare delle fotografie, dei disegni o annotarsi molte caratteristiche della specie in modo poi o sul luogo con un libro di riconoscimento oppure in un successivo momento si può procedere con il riconoscimento. Quindi, una volta scritto questo e raccolto il campione, questo può essere posizionato tra due fogli del nostro quaderno e poi si può procedere con la raccolta di altri campioni. E invece per la fase di essiccamento a cosa dobbiamo fare attenzione? Beh, allora, per la fase di essiccamento sono fondamentali le prime 24 ore. Questo perché appena arrivati a casa o comunque dove si svolgerà l'essiccamento, si prenderanno i nostri campioni e questi devono essere posizionati. Se abbiamo usato il quaderno, si possono prendere i due fogli che contengono il campione e riutilizzare quelli in modo da non sprecare altra carta. E all'interno di questi fogli è bene mettere della carta di giornale o della carta assorbente. Se però la carta assorbente o lo Scottex presenta dei disegni in rilievo, è bene mettere questi fuori dai nostri fogli di carta perché altrimenti rischiano di rovinare il campione durante la fase di essiccamento, durante tutto il processo. Quindi si mettono tutti i campioni intermezzati da fogli di carta, carta assorbente o carta di giornale a seccare sotto ai nostri libri, quindi cerchiamo di fare una pila in modo che ci sia un peso adeguato, una pila di libri, e aspettiamo 24 ore. Dopo queste prime 24 ore è possibile togliere il peso che abbiamo messo, riaprire tutti i nostri campioni e posizionarli, disporli come poi vorremmo che questi fossero sui nostri cartoncini, quindi nella fase finale dell'erbario. Questo perché dopo 24 ore il campione ha perso abbastanza umidità da risultare malleabile e non secco, e quindi si può muovere e disporre senza rischiare di romperlo. Una volta fatto questo, già che ci siamo, cambiamo la carta assorbente, cambiamo il giornale, così da avere materiale più asciutto, poniamo tutto di nuovo sotto il peso e lasciamo seccare per 2 settimane. Invece, cosa ci consigli per comporre l'erbario? Beh, per comporre l'erbario potete scegliere dei cartoncini di dimensione diversa, un po' quello che preferite. In genere mi trovo meglio con i cartoncini A4 perché ci sono dei quaderni ad anelli più comuni, perché le buste in plastica si trovano più facilmente e poi comunque è di una dimensione non troppo ingombrante. Quindi prenderemo i nostri cartoncini su cui disporremo il campione come preferiamo e cercheremo di fissarlo bene con dei pezzettini piccoli di scotch trasparente in modo che non sia troppo impattante. E poi o direttamente sul cartoncino o su un'etichetta a parte possiamo scrivere tutto quello che ci siamo annotati durante la fase di raccolta. Quindi possiamo scrivere il nome, la data di raccolta, il luogo di raccolta e anche alcune altre caratteristiche che ci possono interessare. Fatto questo, il campione col cartoncino viene messo nella busta di plastica e all'interno del nostro erbario. Bene, bene. E hai altre note personali da aggiungere? Ma in generale riguardo alla composizione spero di avervi detto tutto, l'unica cosa che consiglio sempre e dico è di fare attenzione durante la fase di raccolta a prelevare i campioni in modo rispettoso senza rovinare particolarmente le piante, prelevando solo il necessario e in modo da avere il nostro erbario ma nel rispetto della natura, insomma. Giusto. Giustamente, sì. Perfetto, grazie mille allora. Grazie, grazie a voi. Ciao. Ciao. Prendo la scarpa. I have crossed the border. Yeah. back of the true glue, glue, glue, glue. It's so many people, fucker, would you recognize? God is watching you, go, go. Can't you see? Yeah, yeah, yeah, yeah. Eccoci. Esatto, siamo sempre noi. Sempre Addu e Zazzi. Esatto. Insomma. Insomma, non potete sbagliare a fare l'erbario. No, cioè, no. Non esiste, ok? Non avete avuto indicazioni precise di più. Esatto. Quindi, cioè, se le sbagliate, veniamo lì, vi bastoniamo sulle mani, bacchettina, zazza, esatto. Così. Cioè, se sbagliate a identificare, fine. Non... Cioè... Casi persi proprio, non sappiamo più come... sì. Insomma, la nostra compagna ci ha fatto veramente un'ottima guida, direi, su come fare. Però io vorrei dire che una cosa fondamentale se l'è scordata, cioè è palese, veramente palese, che dovrete usare dei dizionari di latino come pesi da mettere sopra le piante ad essiccare. Quelli, cioè, si sa, cioè, se no perché uno compra il dizionario di latino, no? Servono a quello. Sì, cioè, è più che altro è proprio il peso giusto, cioè sì, già lui, nelle lui. Indicazioni proprio degli storici dell'erbario, c'era scritto quel peso. Infatti il latino, no? È una lingua certo, cioè, certo. Torna tutto. Torna tutto. Quindi, cioè uguale, quindi, no? Niente, abbiamo dato indicazioni pure su questo, anche noi abbiamo imparato tanto. Sì. Quindi... Speriamo anche voi che vi sia piaciuta la guida. Esatto. Vabbè, continuiamo un po' allora, passiamo un po' all'altro argomento che vi si diceva, quindi la parte più artistica. Esatto, così si passa da un tema all'altro, sì. Sfumature varie. Sì. E tema artistico, quindi diciamo, se vi volete ispirare anche voi per i vostri erbari, potete andare a visitare, non sto facendo pubblicità, potete andare a visitare la mostra, la Basilica di San Lorenzo qua a Firenze. Vabbè, cioè, oggettivamente ci sei andata, ti è piaciuta la mostra. E quindi ve la propongo. Diciamo che c'è. Potete assolutamente, cioè anzi, se volete, è molto interessante. San Lorenzo a Firenze, esatto. Poi dopo se volete fare anche un giro al mercato, però quindi questo decidete voi. Per ora la mostra che è un'esposizione temporanea, sul sito dice anche aperta durante la settimana di Natale, quindi se siete qua, non avete nulla da se fare. Se magari fa schifo il Natale in famiglia, esatto, scappate, esatto. Io sono un uomo o donna o quello che è di cultura. Raga, io faccio un sacco di confusione tra i due termini, però anche di cultura. Cultura, fine, no? Di cultura della cultura. Esatto. E devo andare a informarmi sugli erbari e tutto il resto, esatto, c'è la mostra, esatto. No? O se volete fare come un erbario come regalo di Natale, vi potete ispirare. Sì, o potete andare lì e rubare. Esatto, gli anche, erbari anche. Antichissimi, esatto. Che costano più della vostra testa e della nostra, pure. Quindi non siamo noi che vi abbiamo dato questa idea, in caso. No, noi non facciamo pubblicità. No, noi esatto, continuiamo. Quindi, esposizione temporanea si diceva. Sì. Presso il Salone Donatello della Basilica di San Lorenzo, come già detto, Firenze, ed è una collezione proveniente, diciamo, dal Museo della Specola. Sono presenti varie collezioni zoologiche, mineralogiche, anatomiche e ovviamente dei bellissimi modelli in cera di piante, molto accurati, nonostante fossero diciamo, stati fatti, nonostante siano stati fatti comunque molti secoli fa, molti, relativo. non approfondire. Esatto. Comunque, quindi potete andare lì e vedere anche questi modelli di frutti particolari o di frutti in realtà comuni che però per l'epoca erano particolari come... La banana. Come la banana. Mala, mala, mala. Questa banana... E questo verso perché era chiamata la musa paradisiaca. Eccoci ragazzi. E lì diamo immaginazione. Libero sfogo. Esatto, quello che volete. Divertite. Quello che volete, esatto. E, però, riguardo al tema di oggi, appunto, abbiamo detto, ci sono anche degli antichi erbari. Antichi erbari che si legano anche alla storia presentata oggi. Infatti, sono presenti, diciamo, un'antica raccolta fatta da un prete lucchese, costui chiamato Michele Merini, con riferimento anche a Luca Ghemi, quel medico botanico, esatto, che si diceva, no? Di Padova, Bologna, lui. Il vostro amico, no? Esatto, e quindi questo, diciamo, intorno alla prima metà del XVI secolo. E successivamente, inoltre, grazie anche a un medico aretino, viene realizzato anche il primo erbario della storia, che è stato organizzato con criteri scientifici, quindi basato, come si diceva anche prima, non su caratteri, non sulle proprietà medicinali delle piante, ma soprattutto sui caratteri morfologici. Questo era il De Plantis di Andrea Cesalpino. E... Che dov'è adesso, infatti? Tutto l'erbario di Cesalpino è all'interno dell'erbario istituzione, perché se no si fa casino ovviamente. Comunque all'interno dell'erbario istituzione che c'è qui a Firenze, quello che si diceva prima, no? Esatto. E questi criteri, diciamo, poi culminarono nella sistematica di Linneo e quindi... tutta un'altra storia. E tutta un'altra, diciamo, classificazione molto precisa. Però e... appunto, quindi si capisce, no, qual è stata la funzione degli erbari durante tutta la storia, che prima di arrivare a Linneo, che fu il primo a dare una classificazione decente, e più che decente, esatto, ovviamente, insomma, binomiale, sì, che ancora si usa, quindi... Esatto, ma in latino anche quella, ragazzi, cioè si torna lì. Quindi si capisce davvero che gli erbari sono stati più che importanti durante tutta la storia, proprio. Non ti voglio interrompere, prego. Ma dici sempre cose interessanti, quindi perfetto. E altri, diciamo, campioni che potete trovare invece appunto provengono da questo erbario centrale italiano, che è stato fondato nel 1842. E quindi vedrete campioni raccolti da varie collezioni. Ma continuando su mostre legate, diciamo, a... Anche qua, ambiente in senso lato, diciamo, sì, ambiente, natura, quello che ci volete mettere. È famoso un festival che si tiene a Catania, in Sicilia, che purtroppo in realtà è finito a dicembre, ma è biennale, e quindi tornerà. Che quest'anno aveva come direttore artistico Antonio Perazzi, che ha collaborato anche qua a Firenze per la realizzazione dei giardini della Manifattura Tabacchi, se volete andarli a vedere, molto belli. E questo festival, che si chiama Radice Pura Garden Festival, presenta ogni appunto 2 anni dei progetti, piccoli progettini, ognuno con un tema, diciamo, no, che ognuno... che porta avanti, ovviamente, che presenta il tema dell'anno, che quest'anno era il giardino del futuro, però con sfumature differenti, ovviamente... Più approfonditi, sì, esatto. Ognuno ha il suo tema approfondito, esatto, no? Esatto, esatto. E quindi alcuni erano più, ovviamente, incentrati magari sul riuso di alcuni materiali, altri più legati a un giardino resiliente, poi soprattutto essendo in Sicilia, diciamo, c'è il grande tema del giardino mediterraneo, e insomma, quindi se volete andarveli a vedere, sono molto interessanti queste piccole spunti esatto, che insomma vi possono far vedere anche a voi, non so, varie idee per i vostri forse giardini che avete o per giudicare quelli altrui, esatto, come esatto, dicevamo prima. Esatto. E un'altra biennale è quella di Venezia, che quest'anno è la biennale di architettura, ma Perché ve ne parliamo anche qua? Perché il tema era How do we live together? Cioè, come vivremo insieme? Insieme, anche qua, in senso molto ampio, quindi... Il più ampio possibile, esatto, ovviamente, no? Tutto quello che vi può venire in mente, dove l'architettura può avere un ruolo particolarmente importante, perché ovviamente è quella che delinea un po'... appunto gli edifici nella quale viviamo, gli spazi nella quale noi ci troviamo, creiamo, quello che insomma si fa, le varie nostre attività giornaliere. E quindi c'erano anche qua vari temi portati avanti sia su come si usano, sia legati ai confini tra tra i vari stati o insomma varie disuguaglianze che si creano a livello mondiale, ma anche di contatto e di convivenza con la natura all'interno delle città e di come creare anche ambienti più misti, quindi meno dove ci siano anche meno divisioni, cioè una parte magari della città più legata a... la parte residenziale, un'altra lavoro o insomma i parchi, così, ma avere dei sistemi un po' più misti dove ognuno possa avere vicino più servizi ma anche più esseri viventi. Se dico bene, è un po' anche il tema è quello dell'inclusione, no? Che si nell'architettura del paesaggio magari in particolare, vabbè, in realtà nell'architettura tutta dovrebbe essere così, sì. Insomma, sì. È un po' il tema fondamentale su cui probabilmente dovremmo soprattutto approfondire appunto i prossimi progetti del futuro o ristrutturazioni, vabbè, insomma, quello che vi pare comunque, perché probabilmente è un po' l'unico modo per riuscire a creare delle prospettive di città, per esempio, stiamo parlando più che altro di città, direi, sì. Che sono gli ambienti ovviamente un po' più critici a livello ecologico, gestionale, quindi per avere città appunto più per tutti, inclusive, per tutti, no? Come dicevi, in senso ampio, no? Quindi certo. Sia umani che piante, animali. E tutto ciò che non è né piante né animali, perché c'è anche altro, e se magari pizzino non si vede, però vabbè, comunque diciamo ambiente, ecosistema, natura, cerchiamo di reinserirla o riprogettarla anche all'interno delle città, con anche lo scopo per noi umani di inclusione fra tutte queste realtà che appunto abbiamo citato. Esattamente. E poi appunto, visto che si parlava di estinzione, di specie che non si ritroveranno mai più, anche lì era presente un'opera chiamata Resurrecting the Sublime, che era una sorta di teca, diciamo una stanza con pareti in vetro, dove il visitatore poteva entrare e annusare un odore di un albero da fiore che cresceva su antichi campi di lava alle pendici dei vulcani nelle Hawaii, e quest'albero appunto si è estinto nel 1912. Ora, io dovrei dirvi il nome di questo albero, che è, diciamo... Io confido in te. È un po' complesso. Prima facciamo quello latino, anche se il latino ci sta un po' così, abbiamo capito, no? Però, allora, Ibiscadelfus... Wilderianus Rock, che immagino voi, per voi sia facilissimo andarlo a cercare, no? Adesso. E invece quello hawaiano, che mi semplificherà la vita, è Maui au Kuaiwi. Kuaiwi! Ragazzi, cioè, l'hawaiano è una lingua meravigliosa, esatto. Secondo me. E Kuaiwi, Kuaiwi. Chiamare sì. Una pianta Kuaiwi. Kuaiwi. E niente, bene. Insomma. Mi fa già simpatia questo fiore. È vero, però non lo puoi più vedere. No. E di chi è la colpa? Di chi è? Chi è che ha portato l'estinzione? Io non lo so. Tu non lo dici? No. È stata l'epoca coloniale che ha distrutto tutti questi paesaggi. Ragazzi. Facciamo schifo. Un pochino. Questo lo dico, questo posso. Questo puoi dirlo, ok. Sì, di questo sono convinta, lo posso dire. E niente, quindi... Ma che facevano in questa sala? Cioè, c'era il fiore? No. C'era il profumo, detto, no? Sì, l'odore, esatto. Quindi tu rimanevi inebriato da questo odore un po' pizzichino e un po' particolare che loro sono riusciti a riprodurre. E niente, appunto, quindi il nome è Sublime, perché è questa cosa un po' molto, insomma, comunque affascinante di avere questo profumo, ma anche terribile perché appunto è un albero ormai estinto. E nada, questo è quanto. E vi porteremo poi anche altre mostre, parleremo anche di altre cose, di altre opere, altre esposizioni. Sì. Così un po' come postille, nel senso, sappiate che ci sono queste cose o ci sono state in questo caso. Siamo arrivate tardi, però esatto. No, però quella a San Lorenzo c'è ancora. Esatto, quella potete andare a Natale, il 24. Vai, via. Sì. Ok, e quindi sì, ci sta che appunto l'argomento artistico che c'entra un po' per qualche ragione con le piante, appunto avete visto qui la Biennale, appunto c'entra, però ovviamente parla di tante cose diverse, no? Però comunque ci sta che lo ritireremo fuori, se ne riparlerà, insomma così, è una trasmissione un po' varia, un po' ampia, dipende come ci gira. Esatto, insomma, i giorni. Esatto, sì. Speriamo che ognuno di voi possa trovare almeno una puntata interessante. Se no è un problema. Esatto. Sì, quindi niente, questo è quanto. Ah, vi ricordiamo che trasmetteremo su Radio Wombat e dal sito che è tutte le volte lo devo riguardare, radiowombat.net, eppure è facile, cioè, non è difficile, va bene. Potete rivedere tutti i vari podcast, non solo della nostra trasmissione, ma di tutte le altre numerosissime, bellissime trasmissioni di Wombat. Molto interessanti. E tra l'altro, sulla pagina del podcast di questa trasmissione, vi metteremo amorosamente tutti i nomi delle tracce che vi abbiamo messo, perché non ve l'abbiamo detta mezza. Esatto. Però ci sembra giusto rendervi partecipi. Perché sì, sono sì, canzoni sì. Ma non belle. Vi diremo neanche l'ultima canzone, quella di chiusura. Non no, vi diciamo. No, ormai andiamo avanti così. Sì, ormai si finisce con questa linea. Però così dovete per forza andare sul sito a ricacciare i nomi. Esatto, spulciare anche altre cose. Ok, quindi niente, noi ci risentiremo alla prossima puntata, ancora non è definito il luogo e il tempo, esatto. Lo spazio, le epoche, niente. Esatto. Anche perché questa niente. È fatta 2 anni fa. Sì, esatto, no? Due anni fa. Non si sa rispetto a cosa. Perché... 2 anni fa, boh, sì, dell'universo parallelo. Esatto, quindi ci rivedremo. Ci rivedremo, ci risentiremo magari. Ci risentiremo. Meglio. Sì. Va bene, allora alla prossima e ciao ciao! Ciao! Beleza, não tem. llegó de repente, grabando mi suerte, mi mente demente, te cuenta al caliente lo que mi corazón resiente. Tú eres el componente, el que me falta siempre. Todo vento, que todo toca, toca y todo está más lento de aplicar. ¿También te gusta el mariachi? Sobre todo el mariachi, chico. A mí el mariachi me encanta.